E ci siamo, sono le 5 di questo martedì 5 aprile 2011. State ascoltando Region Air sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Se ci volete chiamare, ci potete chiamare allo 06 49 17 50. Questa è la Rage e vi lasciamo all'ascolto. Ben trovati a tutti nuovamente sugli 87.9 di Region Air. Noi siamo i ragazzi sempre di Region Air, sono le 4, non le 5. E oggi si parlerà di writing, l'arte del writing molto diffusa negli ultimi decenni. E, insomma, un sacco di ragazzi che si interessano a questa nuova arte per le strade, non avendo comunque degli spazi consentiti in cui andare ad approfondire la loro arte. Oggi avremo la fortuna di incontrare qualche ragazzo che ci parlerà di quest'arte, dei bellissimo. Problemi, delle motivazioni e delle necessità che hanno, insomma, nell'affrontare la loro passione. Prima di affrontare questo tema, introduciamo una data, che è quella dell'8 aprile 2011, questo venerdì. Infatti gli studenti auto-organizzati dei licei di Roma si riuniranno alle 9 a Piramide per continuare il loro movimento. Nell'autunno le manifestazioni sono state regolari, quasi settimanali. E molto partecipate. Molto partecipate.

E prima a parlare di andare a parlare delle arti di strada, soprattutto del writing, ascoltiamoci un altro pezzo antifascista che tratta di Roma, di un ragazzo di Roma, di più ragazzi di Roma, gli In Cantina. Adesso forse abbiamo qualche problema tecnico con il computer, ma riusciremo sicuramente a far partire il pezzo. Alla fine siete tutti dei marrazzo. Servi di uno stato dove alla guida c'è sta un pazzo. Con tutte queste leggi senza senso. Politici ci credete marionette, ma vorrei vedervi tutti quanti. Siamo riusciti a far partire la traccia per fortuna. Tornano gli In Cantina nello studio di Radio Onda Rossa. Degli In Cantina in questa città. Senti come suona Monacqua, l'In Cantina, la romana, fiorentina, salentina, mo' è la rima, smoga senza mina, dalla sera alla mattina, fai bambri, mamma, bambri, mamma, moni, in cantina. Politico, non c'hai capito un cazzo, tanto alla fine siete tutti dei marrazzo. Servi di uno stato dove alla guida c'è sta un pazzo, con tutte queste leggi senza senso. Politici, ci credete marionette, ma vorrei vedervi tutti quanti manette. Vi circondate da mille troiette, poi fate parlamentari solo chi c'ha le dette. State sicuri dietro a quelli le camionette, pagate dalla gente che non se lo può permettere. Ci criticate e poi date tutte botte, e ci arrestate se se famo due cannette. In questa città c'è qualcosa che non va, fra la disoccupazione e la precarietà. Vogliamo un futuro pieno di libertà, cantiamo tutti in coro se non cambierà. Io critico il sistema dei padroni che si accontenta solo se ci abbassano i garzoni. Io critico questa manda dei sbruffoni, la gente non capisce che non è come dei poni. Per comico l'unico mestiere che potete fare da quello che vi sento dire. Avevi col vostro modo di pensare, sempre più abbassato a me mi sembra di tornare. Il ministero della pubblica istruzione sa creare fondamenta per la nostra distruzione, assolutamente favorendo la privatizzazione. Cagnente all'intelligenza per creare opposizione, che per adesso non c'è stata, che non è capace di creare un'alternativa. Quindi se dovemo sopportare sta malavita, che giorno dopo giorno mi affatica la salita. Se in questa città c'è qualcosa che non va, fra la disoccupazione e la precarietà, noi vogliamo un futuro pieno di libertà, cantiamo tutto in coro se non cambierà. In questa città c'è qualcosa che non va, fra la disoccupazione e la precarietà, noi vogliamo un futuro pieno di libertà. Cantambre mamma mamma mamma monina di danza. Gemmini non ti accorgi quando tagli, che so quasi due anni che fai solo che li danni, e può essere pure che te sbagli. L'hanno criticata, la leviamo. Comunque le troiette in esame erano i parlamentari e tutte quelle che giravano intorno a loro. Ma andiamo con gli Snoop Dogg, se possono sembrare migliori. Gli Snoop Dogg con Dropping the Like It's Hot. Yes. Tutta la mia casta. Passiamo alla seconda parte di questa puntata. Vi ricordiamo sempre che alle 5 ci sarà un presidio contro un'occupazione dei neofascisti di Casa Pound sotto la lapide di Valerio Verbano. E adesso passiamo a parlare dell'arte di strada, del writing. Ma prima di fare questo splendido discorso molto interessante su queste arti poco conosciute, ascoltiamoci Snoop Dogg.

come vivevano i primitivi. Forse è addirittura l'arte più antica del mondo. Probabilmente sì. E niente, che c'è da dire? Certo, si fa in condizioni spesso, anzi quasi sempre, molto scomode, e scappando, nascondendosi, perché comunque è un'arte illegale. Certo, certo. Proprio per questo, insomma, su questo io mi volevo fermare un attimo, sì. Nel senso che il mondo del writing, secondo me, è riempito di pregiudizi fino all'orlo, nel senso che se cerchi di parlare di writing con qualcuno, molto probabilmente quel qualcuno ti viene a dire: ah, ma cosa stai dicendo? Non è un'arte, è solo vandalismo. Ecco, ma... sì, qui c'è da fare una grossa distinzione, perché una cosa sono i graffiti, il writing come nasce davvero, e una cosa è il vandalismo. Noi veniamo considerati tutti dei vandali soltanto perché scriviamo su un muro. Il writing nasce all'inizio a Filadelfia, a metà degli anni 70, nel 75 circa, e a New York fa la sua prima vera e propria entrata nel mondo come la vediamo oggi, insomma, quest'arte. E appunto nasce con dei ragazzi che ovviamente delle periferie, che scrivevano sui muri grigi e sporchi, brutti, delle città americane, industriali, le più grandi metropoli, che naturalmente si erano espanse, certo, con la speculazione edilizia. E quindi c'era questa visuale di miglioramento e di coloramento dei muri e di un abbellimento della vita e della situazione in cui si viveva tutti i giorni, in cui si girava, si stava con gli amici. E infatti oggi in Italia, e come in altri posti del mondo, il writing è bandito, anche si rischia anche la prigione dipingendo i muri. Ecco, facciamo subito una distinzione, nel senso che noi ammiriamo il writing in quanto arte, in quanto espressione di un ideale, in quanto espressione di uno stato d'animo. Però c'è subito da fare una distinzione molto pratica, nel senso che non di tutta l'erba si può fare un fascio. Ecco, praticamente, diciamo, ci sono due diramazioni dei writers, nel senso che ci sono quelli che semplicemente non sanno che fare, allora vanno a imbrattare i monumenti, che scrivono ovunque, che magari neanche sono capaci, e poi ci sono quelli che invece, come dicevi tu, richiamano più alla tradizione più antica del writing, perciò cercano le periferie dove ci sono Ma non edifici. Solo le periferie, cioè l'obiettivo è sempre quello di allargarsi nella città, certo, arrivare, cioè, al centro. Diciamo che il fulcro, almeno per noi, insomma, l'idea principale è quella, resta comunque quella di abbellire, e perciò di ricoprire di colori i muri più grigi delle città. Senti, io vi volevo chiedere, comunque, da voce inesperta in capitolo, comunque, come fate voi a distinguervi da... Tu hai detto che non fate vandalismo, questo non è vandalismo, è arte, ok? Come si dipende fa a distinguere... dipende da che punto di vista... Certo, un bel graffito, un bel disegno, secondo me, è arte. No, una io parlavo scritta, di chi lo vede, cioè, se lo vediamo noi o se lo vede... un amministratore, un sindaco. Però, nel senso, tu hai detto andare in centro a fare queste rappresentazioni. Comunque si può cadere tranquillamente nell'essere giudicati vandali, perché comunque sì, questo è un problema enorme, infatti, perché non ci si è mai data voce e si è sempre fatto parlare soltanto chi va contro, sì, o almeno quasi sempre. Certo, infatti forse ci piacerebbe un centro oggi pieno di graffiti. Sì, certo, facciamo sempre la solita distinzione tra Ciccio ti amo e un pezzo serio, certo, colorato, acchittato bene. Soprattutto dipende sempre dal luogo, naturalmente. Io prima non... volevo creare equivoci, ma dicevo nelle periferie, perché diciamo, dicendo anche al centro storico, uno potrebbe immaginare che queste persone che si esprimono con la propria arte vanno anche a scrivere, non lo so, ma uno sveglia la mattina e va a scrivere sul Colosseo, invece no, la distinzione certo, che facevamo no. prima è proprio quella che appunto queste persone certo, che sono degli veri e propri artisti vanno a scrivere nei posti dove è utile scrivere. Ecco, quali sono i posti in cui è utile scrivere secondo voi al giorno d'oggi? Ma dove è utile scrivere? Secondo me è utile scrivere dappertutto. Certo, non, appunto, ripeto, non sui monumenti, sulle chiese, sul Colosseo, sui reperti archeologici, nei musei di arte antica. Però, per esempio, per quello che riguarda... Cioè, adesso il writing, tutta la visione del writing, per certi versi è cambiata. Non è più quella di una volta. Cioè, a New York si aveva una repressione in tempi molto passati, insomma anni 80, inizi anni 90... C'è una repressione quasi brutale, cioè spesso questi artisti venivano picchiati, imprigionati, gli veniva sequestrato tutto, la casa. Poi abbiamo l'esempio di Coptou, che è un importantissimo writer che negli anni 80 si vide sequestrare la propria abitazione, tutti i materiali e tutto ciò che aveva dalla Vandal Squad, che era una nuova istituzione del sindaco contro il writing e tutti gli artisti che lo portavano in giro. Ecco, ma... senti, molti dei writer più affermati, coloro che veramente fanno arte, poi diciamo dallo scrivere sui muri diventano sempre più bravi, affinano le loro tecniche, passano al design di magliette, di abbigliamento. Sì, anche, ecco. Tu come la vedi questa cosa? Cioè, diciamo, a me mi è suonato un attimo strano, è come estrapolare il centro del... Il writing non dovrebbe essere pubblicità, non dovrebbe fare propaganda, almeno secondo me, perché il writing è l'espressione del basso che esce da casa, esce dal locale, esce dai punti, diciamo, morti, e va su un muro e con un'opera d'arte, definiamola così, descrive ciò che c'è dentro, ovvero se ha qualcosa contro ciò che sta avvenendo nel momento, se è contro un tipo di divisione politica. E secondo me il writing, il graffito in genere, è un grande, enorme mezzo di trasmissione, di informazione, di... Ecco, su questo sono pienamente d'accordo, e perciò insomma in qualche modo mi sento sollevato nel fatto che avevo pensato bene, insomma, che questo estrapolare l'arte del writing per portarla alla pubblicità, al commercio, è una cosa che in qualche modo questo avviene soprattutto perché i pubblicitari, come sappiamo, si fanno a ciò che nel momento va di più, e quello che che va di più in questo momento, non dico sia il writing, però insomma tra i giovani, tra a chi è diretto il marketing, il writing se la spigne, insomma, per dirlo bene. Certo, senti, fuori onda mi facevi ascoltare una canzone di DJ Vadim, The Terrorist, la vogliamo ascoltare? Io direi di sì. Allora, di DJ Vadim, The Terrorist. Yeah. The swamp creature. Night falls, and from a dark lagoon deep in the swamp, a horrible monster wades ashore and prowls the night, destroying all who cross his path. After slaying another helpless victim, the evil beast returns from whence he came. pull out in the automatic. Rat it, tat it, I got it, I got it. Never rat it, it's smoke them. It's seeds, the body's dead, it treats paramedics. Push up up on this set, it's a homicide, and I did it. I bet it's a lyric, deeply embedded, and to his head, it's connected. Vi ricordiamo che tutto il nostro odio, il nostro pensiero adesso sta al Tufello, dove dei neofascisti questa mattina di Casa Pound hanno occupato una scuola a pochi passi dalla casa di Valerio Verbano. Un chiaro esempio di provocazione. Noi questa provocazione la accogliamo e ci facciamo sentire in tanti qui a Roma alle 5 sotto la lapide di Valerio Verbano. With an ugly bra, smelling like Nexus, using Humex, smoking Marlboros, A's infectious, weighing less than your Rolex. She'll share the needle. I know I'm not addicting a second. That's why I keep on inflecting and return. Different human being each ripping. Terrorists, terrorists, terrorists, terrorists. T-E-R-R-O-I-S. Terrorists, terrorists, terrorists, terrorists. I'm after everybody. I am the terrorist. Pants and rope. That terrorist! Kinda like an acrobatic fall. Move funky through the air, go attack the room and watch the crowd split apart. Crack back, bust, blind side shot. You ain't seeing, but you feeling. Impact object like a rock. My words rolled up in sound. Tossed like Randy Johnson, heat off the mound. I'm throwing down like Westbrook to his teammate when he got a hand down on the ground. Running around, stretching the field. Deep on your corner, safety always vice protection. Your shield gets blown to smithereens. Angel dust, shoot up for the hell of fame. I scoop quick like souped up Honda. Got my partner's ride from the Philippines. What I mean? The difference between me and these rappers, I kick like nobody else since I switch them between. Leaving them puzzled, I dazzle and dazzle. Moving my presence, amazing. Terrorists, terrorists, terrorists, terrorists. T-E-R-R-O-I-S. Terrorists, terrorists, terrorists, terrorists. Walk that back street curve. I am the terrorist, terrorist, terrorist, terrorist. T-E-R-R-O-I-S. The terrorist, terrorist, terrorist, terrorist. Let me tell you what. This is about the... E allora, questa canzone sì, ci identificava perfettamente nel modo in cui veniamo considerati dei terroristi. Però io volevo aggiungere una cosa e poi lascerò il microfono a chi viene dopo di me. Secondo me il writing è dannoso soltanto per tre persone: i politici, che lo considerano dannoso, e perché noi contestiamo ciò che loro dicono, ciò che loro fanno, e lo facciamo davanti agli occhi di tutti. I pubblicitari, perché rubiamo la visuale alle loro pubblicità, che cercano di entrare nella mente di tutti. E poi quello che ci rimette di solito più spesso sono i writer. Siamo noi che ci rimettiamo molto più spesso di tutti gli altri e molto peggio, diciamo. E questo sottolinea un po' quanto sia importante per i writer avere uno spazio dove poter pitturare, dove potersi esprimere. Guarda, con quello che gli piace fare. Questo spazio ce l'abbiamo fare. Già nella nostra città. Fantastico. Senti, ascoltiamoci un ultimo pezzo. Certo, e non poi... negli stessi metodi e nelle stesse libertà. che vorremmo, però insomma, certo, soprattutto non con il writing, lo stesso... anche questo ormai nella mente della gente. E sicuramente, diciamo, la cosa che fa più male è che forse non da tutti è capito, non da tutti è compreso e non da tutti è apprezzato. Adesso ascoltiamoci un altro pezzo prima di continuare. Bellissimo. Let me tell you what. This is about the time. Hit from the bong. We do something to motivate you. Bring forth King Arthur. Ah. Yes. And now, we shall pick one of you. Adesso mettiamo un altro brano cambiando genere e passiamo al reggae rimanendo sul nigga style. Coming from the country with my bag of Cali, I woke up on a DC in what people me. Don't you run now, youth man, you won't get away. If you slip, you will die. And if you run, you can't die. For I've got my dick stuck right in my hip now. Oh, DC. Don't you take my eye shade. Oh, DC. Don't you touch my collie. Oh, DC. My children dying for hunger, and I'm on a suffer. So you've got to see, it's this Cali that feed me. 50 cents a stick and a dollar a quarter. That's what keep me alive. Me and my two kids and wife. So give me a chance, or make me go a little faster. Just let me pass through, and God will bless you. A little good egg, yeah. You dread them waiting in the city. You go lick it to the gritty. So please, Mr. DC, won't you have some pity? Oh, DC, don't you touch my eyeshadow. Anche questo pezzo, passando al reggae, si è concluso. Passiamo alla musica live. Sono qui con noi in studio e a noi ci fa molto piacere Camoman and Missa Guillaumes. Bella, bella, bella. Ecco, loro faranno una cosa un po' particolare. Mr. Guillaumes farà una base in beatbox e Camo farà un po' di freestyle reggae sopra. Quando ok, volete. Buddy boy. Do it. Listen, driver. I watch again, again, again. Now what an again, again, again, again, again. Listen, driver, don't stop at all. Drop this Arizona round the Albemarle. Driver, don't even it. Coloco the little bullet in a combo quick. Driver, just remember the damn spilling me. Cause if you run into beds, my friend, listen. A body boy, well a body day. Listen a reggae boy, well a dem, well a day. Body boy, body day. Listen a reggae music, reggae again. Say, driver, don't stop at all. Got this Arizona round the Albemarle. Driver, don't even it. Coloca the legal body, boil it. Ok, buona, buona. Mo, se mi fai anche tu, DJ... Mi devi fa sta cosa. Vai, qui. Dica. Fa. A Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe, a Wimbawe. Listen. In another jungle, at the mighty jungle, live another lion, with the mighty lion, well, na reggae. I listen a rebel music. Listen a well, I'm not in another jungle. At the mighty jungle, I live the lion. I live the mighty lion. Welcome on man, I sing it big. A cobra play pulling on a selector. Will I did, will I did. Pull it, pull it. Adesso se concludiamo big up e ma peccamo lo stiamo stesso amore lo stai a senti ridi immagini una mano in una cantina Foxy. Ok, ok, adesso ti concludiamo bello mio questa mini gem con una ciunna Cicileu. Yeah. Allora, praticamente ti faccio un mini intro, almeno te la spiego. Questa è una nuova canzone che abbiamo fatto. E all'occupazione di quest'anno, che mese era l'occupazione, bello mio? Ottobre. Novembre. E abbiamo fatto, gli piava bene la voce reggae agli amici miei, mi hanno detto, dico la voce reggae ste parole. Praticamente loro hanno un amico che si chiama Curio, cioè il soprannome di questo è Curio, ok? Sto tizio diceva che rollava le bimbe, le canne le chiamava bimbe, ok? E in più, sai che vuol dire junta, tipo juntami una canna, juntate un attimo qui, poi lo può usare per tutto, junta, juntami un'informazione. Loro usavano sghira invece di junta, solo sghira. Loro. Quindi sghira una bimba, sghira una bimba vuol dire rolla una canna. Oh, e, però, ah no, sì, sì, sì. Vabbè, è il significato della canzone. Eh no, capito. E poi sto tizio diceva che sghizzava in motorello, cioè andava a manetta in motorello, andava veloce. Quindi sghizza, sghira una bimba, sapete che vuol dire, no? Cioè, per gli fa veloce, vabbè, certo. Rolla. E sto reading fa più o meno così. Listen. Boom, raga, Curio. Sghizza Curio, sghira una bimba Curio. Annetti, gritti, gritti. Boom, raga, Curio. Schizza Curio, sghira una bimba Curio. Yo e mi vamo tam, these are some my friends told me one time. It is about the ganja, ganja smoking, yeah right. Listen, we love the herb, we like to smoke it. I love the ganja plant, I am missing, yeah, me talking, yeah. We want no coca, no, we no want no coca. Give me the weed, give me the sweet ganja weed. We want no coca, no, we no want no coca. Give me the weed, give me the sweet ganja weed. Boom, raga Curio, pizza Curio, sghira na bimba Curio. Anetti, gritti, gritti, boom, raga Curio. A sghizza Curio, sghira na bimba Curio. One more time, che, quella, sghira na bimba de da. Sghira na bimba de. I pull it again, I pull it again, I'm a friend. Listen to rebel music, rebel bullet. Pulo! Grandissimi, grandissimi, grandissimi. Siamo allo stazione mo, su Radio Onda Rossa, Regione Racquaio, 87.9 mo, sentilo. Ok, listen, alza un po' ridim, che non lo sento. Alzamelo un po'. Listen, questa è una cantina combination, coccamo lo sta senti ancora. Lo volemo bello alto. Orrai, orrai. Oh, na, na, na, na, mo. Listen, camo. Listen, camo. Listen, camo, man. Well. Whiskey run on a bimba, will a drin, will a drin. Pulling a select on a drin. Penso sulla playa, senti il fallo, fammo il paio. La cantina rassa paia, dico non te ferma mai. What? Luca lure che m'abbaia. Che ci senti stasera, non ci lascerai mai mai. Cobra, mai. Cobra. Luce che t'abbaia, so dico tipo babaglia. Suona corde, mica morde, mica un cane. Pulita fino a fin. Poco picca il fuoco, in tutta l'Italia. Bambri bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim bim. Will what again, what again, what again, will what again, what again, man? Will what again, what again, what again, great. Hey, ready masala with a gym in a container. In cantina Roma senti il ritmo che funziona. Questa musica risuona nel cuore di ogni persona. Subito dopo la scuola ma senti il gym che motta suona. Bambi di bam bambi di bi di bi dan dan. Nobody like listen, listen, listen, yes, hey. Nobody we like to smoke it. Like to get high, listen. Like not to smoke it. Like to get high every time. Say we like to smoke it. I read him, read him, I read him. Smoke him or twins. E pull him. E pull him. C'è un piacere sto reading, bello. What the number? Pull up. Mettimi se lo trovi, c'è il mio baby reading. Okay. Un attimo, cambiamo base, grandissimi. Stiamo facendo grandi pezzi di freestyle qua dentro. Fammi un pezzo e ce l'ho tutto. Ah, vai, vai, grazie. Ti faccio un intro e lo fai. No, dopo di voi due, poi cantate un po', poi lo faccio io. Senti come suona Malion combination con Camo, Jimmy Mo. Ehi, alza la base, zio. Che non lo so, ma per momento quando ste vabbio sento pulo. Saluta. Bra. Che bra. Awala che na geng na gina. Listen to me, we la in a cantina. I wanna see the youth them die when I see I'm crying. I never feel in the right. And Roshomana sing the watch I turn nice and go. Oh. Know what you're fighting. Oh, bomba me momento quando se vabbio sento visto san decimento. No, non riesco a andare lento. Ah. Se pure lo yento con lui la raga canto. Non andiamo sempre cento perché poi fumiamo tanto. E da Roma fino a Taranto se passando momento. Per Cina. San decimento, bam baby di bam bam. Bella regà, questa è una cantina su Region Air. Bello in cantina, bello copriatino magna. Bello rosso magna. Alright. Oh, andiamo a fare. Andiamo a fare. Andiamo a fare. Purtroppo ci tocca tagliare. Ci siamo divertiti tantissimo qui. Abbiamo avuto, ripetiamo, Camoman nello studio. Cobradino insieme Cobradino a Mr. Guillaume. E adesso ci toccherà salutarvi, purtroppo di là ci fanno segno che è tardi, veramente, ci scusiamo per il ritardo. E vi lasciamo al martedì autogestito da femministe e lesbiche, chiudiamo questa puntata di Region Air, grazie e al prossimo martedì. Vi ricordiamo l'appuntamento è adesso alle 5 sotto la lapide di Valerio Urbano contro l'occupazione dei neofascisti di Casa Pound, di una scuola lì vicino casa di Valerio Urbano. Se ci volete chiamare il numero della radio è 06491750 e da Region Air un buon pomeriggio e ciao a tutti, al prossimo martedì.